Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità. Se le panchine sono piene di gente che sta male. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siete in compagnia anche quest'oggi del presidio universitario di Libera Bologna, questa nostra consueta mezz'ora del mercoledì. E a tenervi compagnia quest'oggi ci sono io, Pietro, e poi ci sono Giulia e Francesca. Fantastico. Allora, oggi vorremmo parlare di un tema abbastanza scottante. Anzi, azzarderei una puntata sul gioco d'azzardo. Fantastico, alla grande. Allora, il gioco d'azzardo è sicuramente un tema interessante. Diciamo che tutti noi nella vita abbiamo provato la tentazione di giocare una schedina. Non è una seduta da psicologi, lo sai, vero Pietro? Grazie Francesca. E oppure, non so, abbiamo provato a giocare alla roulette, il brivido. Francesca prima mi diceva che adora andare elegante ai casinò. No, ma sì, ma poi, cioè, capita tutte le domeniche più o meno. Sì, è una assidua frequentatrice, infatti ha bisogno anche di un sostegno. E quindi è, insomma, un tema scottante. Ma noi vorremmo anche svelarvi un po' in retroscena in questa puntata di questo mondo che pare così bello e luccicoso, ma che in realtà nasconde una realtà ben inquietante. Vorremmo darvi qualche dato innanzitutto, e quindi lasciare la parola a Francesca per questo momento di divulgazione culturale e scientifica. A te la parola. L'Italia è il terzo paese al mondo nelle classifiche per il gioco d'azzardo. Essa è inoltre al primo posto in Europa. Tutto ciò con un sottofondo illegale di almeno 10 miliardi di euro, che va a rientrare in quello che è il paese illegale, che pesa sull'economia. Sì, grazie mille Francesca, è stato un momento fantastico e toccante. Trascendente. Io, magari Giulia, se tu riesci a essere un po' più dinamica, certo, energetica, certo. Questo aiuterebbe molto, grazie mille. Allora, parlando di gioco d'azzardo, il primo dato da fornire è sono i 1260 euro pro capite del gioco d'azzardo in Italia. Di cui 76,1 miliardi di euro fatturato legale, che lo Stato incassa il 9,3 miliardi di questi. E così, un dato a caso, tanto per paragonare, è 11 volte la spesa universitaria. Vabbè, ma noi in Italia sappiamo spendere benissimo sempre le cose. E tra l'altro un altro dato è che le violazioni riscontrate sono ben 6.295 solo nel 2011 per appunto un commercio che impegna 120.000 persone e muove ben 5.000 aziende. Ma vogliamo dire dov'è l'Emilia in tutto ciò? Diciamolo. L'Emilia si trova nella splendida Cinquina con 1.160.000 euro. Ma vogliamo dire a questo punto chi c'è ai primi tre posti di questa meravigliosa classifica? E diciamoli. Allora, medaglia di bronzo per il Lazio con 1.612.000 euro. Bravo il Lazio. Medaglia d'argento per la Campania, 1.795.000 euro. Ma adesso, rullo di tamburi. Al primo posto abbiamo la Lombardia con 2.586.000 euro. Sempre splendida lei, la Lombardia è sempre in testa, ragazzi. Va bene, dopo questa parentesi di dati vi lasciamo con un po' di musica a sedimentare le notizie che vi avevamo dato e attacchiamo con Paper Planes di Mia. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains, every step I get to, I'm clocking night. democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are. Ma entriamo un po' più nello specifico del tema. Allora, lo Stato innanzitutto autorizza 10 concessionarie al controllo appunto del fenomeno del gioco d'azzardo. Concessionarie che però paradossalmente sono strutture private, sono società private e insomma capite bene che un'azienda privata come primo scopo ha quello di lucrare. Cosa ancora più paradossale è che queste concessionarie private possiedono addirittura dei casinò, quindi in tanti casi i controllati sono poi gli stessi che controllano. Ma risulta anche assurdo il fatto che all'interno dello stesso codice penale venga individuato il gioco d'azzardo come un reato, salvo alcune deroghe poste esplicitamente dal governo. E fino agli anni 90 tutto ciò era comunque sotto controllo, ma soprattutto con gli ultimi governi, da fine anni 90 in poi, con i due governi, gli ultimi due governi Berlusconi in particolare, sempre si è avuto. Con Silvio ce la prendiamo. Ma è casuale, vi giuro. E comunque, dicevo, con questi ultimi due governi si è avuto addirittura l'ultimo governo Berlusconi ha introdotto due nuovi tipi di giochi d'azzardo: il gioco d'azzardo online, che coinvolge soprattutto la fascia giovane della popolazione, e poi la lotteria del consumo, che a quanto viene detto nell'intervista a Iori che noi abbiamo scorso, così prende un sacco le massaie. Povere massaie, va bene così. E la mafia naturalmente in tutto ciò ha affittato profitto e guadagno, tant'è che sono ben 41 i clan che si sono interessati del gioco d'azzardo che si sono radicati nel territorio. E in Emilia Romagna, per fare un esempio, in Emilia Romagna qui abbiamo i Bidognetti, il clan dei Bidognetti, che ha proprio il controllo del gioco d'azzardo su tutte le sale bingo, le slot machine e i videopoker. Ma noi a tal proposito abbiamo intervistato uno dei più grandi esperti in materia di gioco d'azzardo e collegato appunto alle infiltrazioni mafiose, che è Giovanni Tizian. Giovanni è un giornalista che purtroppo vive una vita davvero difficile, nel senso che è sotto scorta per le inchieste che ha condotto appunto sulla mafia in Emilia Romagna e anche a seguito della pubblicazione del suo libro Gotica. E noi siamo andati appunto a sentirlo e a fargli due domande, e sentite cosa ci ha detto. Allora, siamo qua in compagnia di Giovanni Tizian. Ciao Giovanni, volevamo partire con una domanda generale e chiederti un po' il fenomeno del gioco d'azzardo in Emilia Romagna collegato appunto alle infiltrazioni mafiose. L'Emilia Romagna è una delle prime regioni, la terza o la quarta per giocatori, cioè l'Emilia-Romagna ha speso gli emiliani hanno speso tantissimo nel 2011, appunto sono la terza regione per giocate nelle slot e nelle scommesse. E in Italia nel 2011 sono 79 miliardi giocati dagli italiani, 8,7 miliardi sono rimasti allo Stato, quindi è un fenomeno che è nazionale. E in Emilia-Romagna si è radicato molto, e abbiamo pensionati, giovani e operai che finito il turno di lavoro per appunto per sperare in un futuro magari che con lo stipendio riescono a garantirsi, investono nelle macchinette, proprio un investimento quasi nel futuro. Quindi l'Emilia Romagna è soggetta assolutamente al gioco d'azzardo legale. In più c'è il problema delle mafie. E appunto come riescono le mafie ad entrare all'interno del meccanismo del gioco d'azzardo? Le mafie entrano, i clan delle organizzazioni mafiosi entrano gestendo queste società private che noleggiano queste macchinette, noleggiano oppure appunto appoggiano semplicemente in dei bar, ma l'elemento di novità chiamiamolo così, è proprio in queste società, in queste SRL, in queste SPA create ad hoc. In Emilia Romagna ce ne sono tantissime, da gente con insomma passato abbastanza torbido, legate all'andrangheta soprattutto, che si presentano ai gestori dei bar e offrono queste macchinette. Il trucco dove sta? Sta che su 10 macchinette piazzate in un bar, l'organizzazione mafiosa, quindi la società legata all'organizzazione mafiosa, ne collega 2 ai monopoli, quindi paga regolarmente le tasse su 2, le altre 8 le lascia scollegate, perché poi la multa, anche se vengono scoperti, è veramente bassa. E quali potrebbero essere i rimedi per contrastare l'infiltrazione mafiosa nel gioco d'azzardo? Sicuramente voglio dire, non proibire, perché il proibizionismo non ha mai portato a nulla, quindi la legalizzazione, ma credo che sia compito appunto della politica intervenire a monte, cioè riorganizzare il tutto e prevedendo un controllo da parte dello Stato più forte, quindi non lasciare tutto in mano ai privati come funziona adesso, perché adesso abbiamo uno Stato che incassa e basta, e poi tutti i livelli inferiori sono privati, no? In gestione privata. Bisognerebbe tornare a un controllo dello Stato maggiore, dove controlla anche, oppure una via di mezzo potrebbe essere appunto la creazione di queste sorte di white list anche per il settore del gioco d'azzardo legale. Grazie mille, e volevamo concludere richiedendoti il pezzo che ti piacerebbe ascoltare. Madness dei Muse. Grazie mille. E dopo questa intervista volevamo portarvi un esempio che capita a Lugo, in provincia di Ravenna, il giugno del 2011. È un reato d'usura collegato al gioco d'azzardo che vede come figura centrale questo soggetto ancora non identificabile con le lettere puntate AB. Di questo... questi misteri. Questo esempio viene riportato nel dossier di cui avevamo già parlato nella prima puntata redatto dall'Università di Bologna. E AB, questo soggetto, metteva in atto un sotterfugio estremamente raffinato, poiché non si presentava mai e non compariva mai in prima persona, ma mandava uomini di fiducia nei locali del paese, in bar che erano spesso in situazioni economiche poco felici, questi due uomini di fiducia mettevano all'interno del locale delle slot machine e varie macchine da gioco e passavano ogni due volte alla settimana a riscuotere gli incassi, che venivano divisi con il proprietario del locale il 50% a testa. Poi, dopo un periodo, emergevano le difficoltà finanziarie del locale e questi due individui di buon cuore, naturalmente, comprendendo le difficoltà, si portavano la voce di AB come un aiuto, e quindi appunto l'intero incasso da quel momento in poi veniva lasciato al proprietario del bar, e questo lasciava a garanzia un assegno postdato inizialmente per 30 giorni e poi di 7 giorni, assegno in bianco. Tutto ciò portava naturalmente a un continuo indebitamento del proprietario verso il tale soggetto AB. E questo è solo uno dei tanti esempi che però possiamo avere sul territorio, a Lugo, quindi ripeto, a Lugo in Emilia Romagna, di usura legata al gioco d'azzardo. Sì, sono davvero fenomeni agghiaccianti, ma grazie a Dio in questo Libera non si fa trovare impreparata, anzi... Libera appoggia insieme all'associazione Alea e con Agga varie proposte di legge che prevedono intanto sperando appunto che si faccia una legge quadro sul gioco d'azzardo che tuttora non esiste, e soprattutto limitando appunto sia la pubblicità, che è invadentissima, dei siti di scommesse e quant'altro, sia per quanto riguarda appunto le infiltrazioni, subordinando ad esempio la concessione di licenze a società estere a dei controlli sia sulle persone degli amministratori che sui bilanci, appunto per scoraggiare e anche prevenire i fenomeni del riciclaggio, e oltre a ciò anche appunto sanzionare maggiormente appunto inasprendo le sanzioni sull'antiriciclaggio, che ad oggi sono bassissime. E adesso vi lasciamo con una canzone di Daniele Silvestri, Monetine. Di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate dei denari. Non ho colpa se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bandere di coccola l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. E se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Io vendo scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. Non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi se usate queste mie monete al posto delle armi. I vostri sogni li puntate in questo gioco, prendo un'illusione in più e non è poco. Una monetina a te, una monetina.